Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, un'azienda normalmente organizzata dovrebbe essere caratterizzata da un'equa distribuzione di lavoro, responsabilità e retribuzione. Per questo ho sempre sostenuto che in tali contesti vi debba essere un tetto alle retribuzioni, 250-300.000 euro all'anno. Ciò dovrebbe valere a maggior ragione per le banche che vivono con i soldi depositati dai correntisti, ma rispondono del loro operato solo agli azionisti. La mia banca mi ha comunicato che a partire dal 25 gennaio 2010 il tasso attivo che mi riconoscerà sarà dello 0,01% annuo. Quello passivo è indicato invece al 7,71. Il responsabile di questo istituto guadagna milioni di euro all'anno. Sono costretto a mantenere il rapporto con questa banca perché vi ho domiciliato a crediti di stipendi, pagamenti a mezzo rapporto interbancario diretto di utenze varie, uso di bancomat e carta di credito. Per la tenuta del conto pago 220 euro all'anno, con una giacenza media di 10-12 mila euro. Sono quindi d'accordo col presidente Obama, che vuole ridurre le retribuzioni degli alti manager aziendali e riformare il mercato finanziario. Anche la Merkel si è mossa subito in sintonia con lui, sostenendo e promuovendo incontri tra gli altri stati per varare comportamenti omogenei. Agostino. Caro Agostino, lei pone due problemi solo apparentemente collegati. Innanzitutto quello delle retribuzioni ed eventualmente dei bonus dei manager. La problematica è molto sentita, tanto che nei giorni scorsi il Senato ha approvato una norma che prevede che nessuno stipendio pubblico o privato possa essere superiore a quello di un parlamentare. Una norma che giudico inutile, irrealistica e pericolosa. Inutile perché un'azienda che voglia premiare un suo dirigente ha tanti sistemi del tutto legali per aggirare un vincolo di questo tipo. Irrealistica, perché non tiene conto che l'Italia è un mercato aperto ed è uno dei nostri maggiori problemi quello di riuscire a attirare competenze. Pericolosa, infine, proprio perché potrebbe portare a indebolire un sistema economico che invece dovrebbe valorizzare le proprie migliori risorse. È per queste ragioni che è molto probabile che nel passaggio alla Camera questa norma venga drasticamente cambiata, o meglio ancora soppressa. E qui vengo al secondo punto. La sua banca non la soddisfa, ha costi troppo alti e le assicura un rendimento simbolico ai suoi depositi. Ebbene, caro Agostino, spenda un'ora del suo tempo e cambi banca. Sicuramente, qualche metro più in là, c'è un istituto di credito a cui può chiedere condizioni migliori. E le banche sono obbligate a chiudere i conti dei clienti e a trasferire incarichi e dispositivi senza particolari oneri aggiuntivi. Esprima il suo disagio e la sua protesta facendo quattro passi in più. In questo modo, mi creda, farà funzionare meglio il mercato e la concorrenza e aiuterà il sistema bancario a essere più efficiente. Cara Radio 24, se si dovessero lasciare a casa da Sanremo tutti quelli che fanno uso di coca, farebbero solo lo zecchino d'oro. Roberto. Gentile Radio 24, da medico che ha avuto a che fare con cocainomani che hanno letteralmente distrutto le loro famiglie, trovo la cosiddetta punizione assolutamente giusta. Dire che fare uso regolare di cocaina solleva lo spirito è una mastodontica bestialità. Basta vedere come finiscono la maggior parte dei cocainomani. Dire poi che l'intervista è stata carpita quando uno specifica anche le modalità d'uso in modo così dettagliato mi sembra un'ingenuità. Il fatto è che questi personaggi, una volta arrivati al top, si reputano dei messia a cui tutto è concesso. Andrea. Gentile Radio 24, vorrei segnalare un paradosso che potrebbe avere luogo in Campania alle prossime elezioni regionali in merito alle discussioni di questi giorni sulla necessità, opportunità, di avere più donne in politica. Il ministro per le pari opportunità Mara Carfagna si è candidata alle elezioni regionali in Campania, dove vige una legge che impone la doppia preferenza di genere per favorire l'elezione di una certa percentuale di donne. Ora, la popolarità e la capacità della Carfagna farà sì che ella raccolga moltissimi voti, tanto da essere eletta. Però la Carfagna non ha alcun interesse a lasciare il governo e il Parlamento per fare la consigliera regionale. In tal modo, però, impedisce a un'altra donna di entrare nel Consiglio regionale, perché in caso di scorrimento non è prevista la preferenza di genere. Non trovate paradossale che il ministro per le pari opportunità sia la prima a sottrarre con il proprio comportamento il posto ad un'altra donna? Secondo me sì. La stessa cosa riguarda anche quelle altre parlamentari donne che si candidano solo per far acchiappare voti ai candidati maschi. Domenico. Caro direttore, ho un sogno da paese civile. Tutti i talk show o dibattiti su temi politici nelle televisioni pubbliche o private non dovrebbero mai ospitare parlamentari o candidati o comunque uomini politici. Sarebbe indebita pubblicità, affidata all'arbitrio della singola rete. E poi scelti con quale criterio? Sarebbero presenti soltanto esperti nelle materie in discussione, come ad esempio nucleare, pillola del giorno dopo, rapporti con Israele, disoccupazione, infrastrutture, farmaceutica, sicurezza. Inoltre non saranno invitati più di 4 esperti di opinioni diverse, che dovranno parlare senza essere interrotti né dagli altri ospiti né dal conduttore. Questi non dovrà esprimere una sua opinione, ma solo, al termine, dovrà riassumere le varie soluzioni degli esperti. Non ci sarà una stupida, assurda presenza di pubblico plaudente. Solo con questo sistema i telespettatori potranno, alla fine, avere le idee più chiare sui singoli argomenti trattati. Lo so, è solo un sogno. Immaginate Porta a Porta, Anno Zero, Ballarò, Matrix, eccetera, senza la presenza di politici, ma con la partecipazione di interessati, pacati esperti. Si può almeno cominciare a parlarne? Giuseppe. Cara Radio 24, non è che quelli che oggi non vogliono gli OGM sono gli stessi che ieri non vollero il nucleare, per cui oggi l'Alcoa chiude? Io ai tempi del referendum sul nucleare consumavo 50 megawatt di energia per l'azienda internazionale di cui ero responsabile. Dopo il no al nucleare, la politica di espansione di quella multinazionale fu fatta in Francia e le riduzioni in Italia. Bel risultato, non trovate? Gino. Caro direttore, voglio tornare sul dibattito aperto in merito alla punizione delle bestemmie in un campo da calcio. A tal proposito, ricordo l'episodio di Enzo Maiorca che durante un tentativo di primato di immersione in apnea si scontrò con il subreporter Enzo Bottesini. Quello che disse, quando riemerse, l'ho potuto udire solo parzialmente e recentemente grazie a YouTube. Ma allora la mimica facciale fece immaginare a me, che avevo 8 anni, e ai miei familiari una vera e propria aggressione verbale e religiosa. Una bestemmia, in poche parole. Tuttavia, non per questo Maiorca perse la sua reputazione. Anzi, forse l'episodio sottolineò il profilo umano dell'atleta e ne accrebbe la stima degli sportivi. Il ricorso alla bestemmia è certamente una non trascurabile lacuna nell'educazione di ciascun individuo. Tuttavia penso che in talune situazioni possa essere tollerabile. Incriminare la bestemmia televisiva non è più importante che condannare altri gesti di antisportività ripresi televisivamente e su inquadratura ben più lontana del primo piano. Beati i piloti di Formula 1 che con il casco integrale possono dire ciò che vogliono. Ne propongo l'adozione anche nelle altre discipline sportive, calcio compreso. Grazie, Marino. L'altro ieri ho deciso all'ultimo di andare a vedere Inter-Fiorentina di Coppa Italia. Sono sempre stato abbonato, oppure ho fatto riferimento al mio Inter Club, ma questa volta decido di provare un brivido tecnologico nuovo. Li compro via internet. Ma il sito dell'Inter non funziona, non fa accedere alla pagina dell'acquisto, problemi temporanei di server, c'è scritto. Pazienza. Dopo un paio d'ore riprovo e posso comprare i biglietti. 10 euro primo anello rosso, il bello della Coppa Italia. Ci si reca con la solita cricca allo stadio e si parcheggia nel piazzale di San Siro alle 20 precise. Meglio arrivare con un minimo di anticipo perché i biglietti fatti via internet vanno ritirati all'apposito sportello e la partita inizia fra 3/4 d'ora. Bene, l'affluenza è regolare, non ci sono code ai soliti lenti tornelli. È Coppa Italia. Arrivati agli sportelli internet, la visione. Una calca di centinaia di persone compresse davanti alle signorine che stampano. 3 signorine per non so quante centinaia di milanesi imbufaliti. Ci mettiamo in coda. Imprecazioni volano sopra le nostre teste. Qualcuno tira contro i prefabbricati della biglietteria bottiglie di plastica. Spinte che neanche in curva nord quando Pandev ha segnato nel derby. Non c'è ombra di una transenna. Un signore anche abbastanza attempato cade e ci manca poco che gli passi sopra mezzo stadio. Qualcuno è così fuori di sé che spacca a pugni il plexiglass dei prefabbricati. O le spinte sono così forti che le rotture sono involontarie. Insomma, alla fine i tre sportelli sono tutti crepati. Arrivano gli steward. Insulti agli steward. Arriva la polizia. Qualcuno viene trascinato fuori dalla fila. La nostra coda dura un'ora. Per uscire dal marasma dobbiamo camminare sopra il corrimano appoggiandoci con le mani alle casette tipo Reinhold Messner. Chi cerca di andarsene normalmente a piedi deve farsi 5 minuti in stile salmone che risale un torrente in piena. Quando ce ne andiamo c'è ancora gente in fila a cui le vene della testa si stanno ormai chiudendo. Corsa fino all'ingresso, fondo schiena sulla sedia al 30° del primo tempo, 3 minuti prima del gol di Milito. E meno male che non ha segnato al 29°. Poi politici e opinionisti in giacca e cravatta disquisiscono in TV del perché mai c'è violenza negli stadi, perché le famiglie se ne stanno alla larga, perché la Coppa Italia è snobbata, perché la gente preferisce la TV, mentre in Inghilterra sono sempre lì, eccetera, eccetera. Iniziamo a considerare come vengono trattati i tifosi. Giacomo. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.